383. Fagiolini dall'occhio in erba alla retina. Spuntateli alle due estremità e tagliateli in tre parti. Metteteli in una casseruola con due spicchi d'aglio interi, sugo di pomodoro crudo e con tant'acqua di accia che li ricopra. Conditeli con olio, sale e pepe. Poi metteteli al fuoco e fateli bollire adagio fino a cottura completa, avvertendo che vi resti alquanto sugo ristretto per renderli più gradevoli. Possono servire come piatto di tramesso o di contorno all'esso.